Benvenuti a tutti, puntata numero 17 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 su Radio Big World. Iniziamo la settimana guardando ad ovest con quello che poteva sembrare un primato assicurato, quello dei Golden State Warriors con il miglior record della Lega, che rischia di vacillare a vantaggio dei silenziosi San Antonio Spurs. Il miglior record della Lega è adesso in bilico con due squadre praticamente pari e con gli Spurs che piano piano, mantenendo costanza, hanno rosicchiato posizione ai vice campioni del mondo in netta crisi dopo l'infortunio di Kevin Durant. Le due squadre si sono anche incrociate nello scontro diretto di sabato notte, lasciando intendere però che forse al momento del primato interessa poco ad entrambe. Nel big match sulla carta risultano poi a riposo tutte le principali stelle come Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, LaMarcus Aldridge e Kawhi Leonard. Gli Spurs si mantengono comunque in vantaggio piuttosto controllato fin dall'inizio e chiudono la partita con una vittoria per 107-85 malgrado i 36 punti di Ian Clark degli Warriors partendo dalla panchina. Squadra in perfetta parità più o meno in questo momento, ma ancora una volta dietro l'angolo una notizia pesante sia per gli Spurs che per la stagione di tutta la Lega. Stop infatti a tempo indeterminato per LaMarcus Aldridge. Il problema riscontrato è una leggera aritmia cardiaca, non certo una novità per il giocatore di San Antonio, che già aveva avuto diagnosi relative a problemi di cuore quando giocava con i Portland Trail Blazers. Da parte dei texani, ad Aldridge verrà impedito di scendere in campo finché non saranno completati ulteriori test ed esami clinici. Ovviamente, come confermato anche da coach Popovic, la salute del giocatore viene messa avanti ad ogni tipo di velleità possibile e immaginabile della franchigia degli Speroni. Certo che, trattandosi di un giocatore fondamentale per una squadra ad un passo dalla possibile conquista del miglior record della Lega, quel fuori a tempo indeterminato suona un po' come una beffa. Aldridge stava viaggiando infatti a 17 punti, 7 rimbalzi e 2 assist per allacciata di scarpe e rispetto a qualsiasi prospettiva auspicabile e possibile futura per San Antonio è ovviamente una pedina fondamentale, soprattutto a poco più di un mese dalla fine della regular season. Ovviamente per il giocatore sono previsti ulteriori esami ed accertamenti, con l'augurio di tutti che l'allarme possa rientrare e che potremmo vedere LaMarcus in campo per i playoff, sia per il suo bene che per il bene della Lega stessa, e si priverebbe altrimenti di un giocatore chiave per una franchigia lanciatissima ora come ora. Per quanto riguarda Golden State invece è un momento orribile. Venerdì 10 perdono di 1 dai Minnesota Timberwolves per 103-102. Precedentemente erano stati sconfitti anche all'Oracle con l'Arena contro i Boston Celtics per 99-86. Guidati da Ricky Rubio da 17 punti e 13 assist, i Wolves si portano in vantaggio grazie a un 2-2 della lunetta di Andrew Wiggins. La tripla della probabile vittoria è di Curry, ma esce. Steph chiude con 1-8 complessivo da dietro l'arco, solo 7-24 totale di squadra da 3 punti. Dall'infortunio di Durant, i Warriors hanno perso 5 delle ultime 8 partite. Prosegue il periodo pessimo a livello di percentuale di tiro da dietro l'arco, soprattutto per Steph Curry. Continuano le difficoltà in termini di risultato, anche se, guardando l'altro lato della medaglia, a prescindere dall'infortunio di Durant, che sicuramente ha influito, Golden State sembra aver tirato notevolmente i remi in barca una volta strappato ufficialmente il biglietto per la postseason. Tutto sommato, seppur con il miglior record della Lega in bilico e quindi eventuali problematiche in relazione al vantaggio campo in un'ipotetica finale di conference, meglio forse arrivare all'appuntamento decisivo della stagione freschi e senza ciacchi, piuttosto che spompati. Contro i Philadelphia 76ers in casa il 14 di marzo, la vittoria è comunque arrivata seppur sofferta e di 2 punti. Segnata da numerosi errori da parte di entrambe le squadre nell'ultimo minuto di partita, il risultato l'ho vista Draymond Green con 20 punti e con un 2-2 dalla lunetta. Philadelphia infatti non è esattamente la squadra più irresistibile della Lega sulla carta in questo momento. Golden State tira da 3 sopra il 40% di squadra e ai fini del risultato finale questo sembra essere sufficiente. 29 punti di Steph Curry, 28 di Klay Thompson con 5 triple a testa. Fase di galleggiamento per un'altra ovvia protagonista della stagione, si tratta dei campioni in carica dei Cleveland Cavaliers. Rivoluzionata la panchina in occasione della tornata di mercato di metà stagione, malgrado la stagione già finita per Andrew Bogut, ma con il rientro di Jarius Smith, per i Cavs sembra essere problema di attualità la continuità dei risultati. In realtà sarebbe opportuno anche qui capire quanto tutto questo è più o meno voluto dall'idea di preservare energie rispetto ai playoff. Nella splendida sfida contro Houston, i Cavs perdono 117-112. La sfida incrociata verso la quale tutti guardano è ovviamente lo scontro tra James Harden e LeBron James. La spunta è il barbone, con 38 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Il re conclude comunque con una discreta prova da 30 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Momento di forma comunque strepitoso per James, malgrado i risultati altalenanti di Cleveland, stagione la sua quella da incorniciare totalmente, statisticamente eccelsa, e soprattutto dando ogni volta una percezione di controllo sulla partita a mio avviso impressionante. Se Westbrook ha superato la tripla doppia numero 33 e sta andando vita ad una stagione da record assoluto, James non è da meno, va in tripla doppia anche nella vittoria sui Pistons nella notte del 14 di marzo, con 16 punti, 11 rimbalzi e 12 assist, e la sua tripla doppia numero 10 stagionale. Parlare di seconda giovinezza, malgrado che ad oggi i cali fisici James non li abbia mai avuti, ci può assolutamente stare, considerando che questa è la sua 14esima stagione nella Lega. Al momento le sue medie si attestano sui 26 punti, 8 rimbalzi e circa 9 assist a partita. Per quanto riguarda lo stato di forma del re, date un occhio alle schiacciate collezionate nella sfida contro Detroit, persa comunque dai Cavs per 106 a 101 del 9 di marzo. Un autentico show di James, con alcune affondate pazzesche. Malgrado la sua prestazione da 29 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, come detto però Cleveland non la spunta, anche grazie ai 20 punti e i 16 rimbalzi di un giocatore di cui si parla sempre troppo poco, cioè Andre Drummond. Tra le migliori prestazioni della settimana da sottolineare il 14 di marzo, il solito clamoroso Russell Westbrook, che consegna 19 assist, prende 12 rimbalzi e segna 25 punti nella vittoria di OKC su Brooklyn. Il 13 di marzo da ricordare i 19 assist con 22 punti di Ricky Rubio nella vittoria dei Minnesota Timberwolves 119 a 104 contro gli Washington Wizards. Nella stessa gara, beneficiante degli assist dello spagnolo, un super Karl Anthony Towns, che chiude con 39 punti e 13 rimbalzi. Andando a ritroso, da segnalare i 39 punti di Damian Lillard il 12 di marzo nella vittoria dei Blazers sui Phoenix Suns, la solita tripla doppia nella notte dell'11 di Russell Westbrook con 33 punti, 11 rimbalzi e 14 assist nella vittoria di OKC contro i Jazz, e i 46 di uno strepitoso Anthony Davis con 21 rimbalzi nella vittoria ovviamente dei Pelicans sugli Hornets per 125-122. E a proposito di Twin Towers, accanto a lui un Cousins da appena 11 punti in 25 minuti. Chiudiamo citando un giocatore arrivato da poche porte al Trailblazer, Yusuf Nurkic, che si fa indubbiamente vedere nella notte del 9 marzo nella vittoria contro i 76ers. Chiude con 28 punti, 20 rimbalzi e 8 assist, non male davvero per l'ex Denver Nuggets. Ad un mese dalla chiusura della regular season, la situazione a livello di classifiche, come già detto, al momento in cui vi parliamo, solo mezza partita di differenza tra Golden State e San Antonio per il miglior record della Lega e quindi anche della Western Conference. Houston in questa settimana stacca ufficialmente il biglietto per i playoff. Ad est, Boston ritorna a seconda forza, seppur di poco, dopo essere stata appunto, come già detto, superata dagli incredibili Washington Wizards in avvio di settimana. In coda, la lotta per la qualificazione tra le prime 8 per conference. Ad est, l'ultimo biglietto al momento in mano ai Milwaukee Bucks, ma Miami e Chicago li tallonano entrambe con mezza partita di differenza. Al settimo posto anche i Detroit Pistons, con lo stesso identico record dei Bucks, se non mezza vittoria in più, quindi completamente coinvolti nella questione. Ad ovest, ultimo posto per Denver, di fatto unico incerto. Il distacco tra le 5 inseguitrici si è fatto un minimo più netto, di fatto ci credono giustamente ancora quantomeno Portland, Minnesota e Dallas. Andiamo avanti ed arriviamo alla rimembranza della settimana. Parliamo oggi di Dominic Wilkins. Soprannominato The Human Highlight Film, Nick ha avuto una carriera di primissimo livello all'interno della Lega, anche a prescindere dalla spettacolarità del suo gioco e dalle edizioni famosissime della gara delle schiacciate che lo hanno visto protagonista, per le quali è ricordato dai più. In 1074 gare nella Lega ha totalizzato una media di quasi 25 punti e 6 rimbalzi a partita, con apici realizzativi nella seconda metà degli anni 80 come leader assoluto di Atlanta Hawks, attestandosi per due volte oltre i 30 punti di media stagionali. Ma non voglio assolutamente parlare di quegli anni, per quanto il suo duello ad esempio con Larry Bird nelle semifinali di conference della stagione 1987-1988 meriterebbe una rimembranza a sé. Infatti, all'apice probabile della carriera, Dominic Wilkins si scenò una sfida all'ultimo sangue, colpo su colpo, contro Larry e i suoi Celtics, uscendo però sconfitto, con i suoi Atlanta Hawks, di due punti nella decisiva gara 7. Negli anni a seguire, a metà stagione del 1994, venne ceduto ai derelitti Los Angeles Clippers in cambio di Danny Manning. Un tentativo di cambiare le carte in tavola per Atlanta, quasi un gettare la spugna dopo anni di promesse e di successi mai mantenuti. Un po' un dito puntato verso un giocatore che comunque lo vogliamo vedere, verrà ricordato come uno splendido e spettacolare solista, ma assolutamente non un vincente. Ed è proprio questo concetto che in definitiva risulta primario nella carriera di una stella della Lega: la capacità di guidare la propria squadra ad un anello e più generalmente l'essere leader titolato. È quello che, in un modo o in un altro, voglio sviluppare all'interno di questo ricordo, perché l'NBA in questa rimembranza è soltanto un contorno. Dopo mezza stagione ai Clippers, Dominic Wilkins infatti passa da un'esperienza deludente ai Boston Celtics al tempo in caduta libera ad un primo approdo in Europa. Ad Atene sponda Panathinaikos. Qui Dominic vince un Eurolega da protagonista e sembra quindi destinato a prendersi quei successi mai ottenuti in patria nel vecchio continente. Non soddisfatto però, l'anno seguente decide di ritornare in NBA. Stavolta lo accolgono i San Antonio Spurs. Per la franchigia texana è una stagione fondamentale per il futuro. Non tanto per il pessimo record ottenuto con Dominic Wilkins leader assoluto del team perché erano fuori per infortunio sia Sean Elliott che David Robinson, ma perché da quella oscena stagione si pongono le basi per la vittoria della Lottery, la prima scelta assoluta del draft a venire che si tramuterà in Tim Duncan e quindi in un'epoca d'oro totale per San Antonio a livello di titoli vinti. Il ritorno di Wilkins in NBA è così destinato ad essere ricordato principalmente per aver guidato da leader la squadra texana in una delle stagioni peggiori di sempre, quella che comunque ha regalato di fatto la possibilità agli speroni di garantirsi il futuro radioso che ben conosciamo. Insomma, Dominic Wilkins il migliore nella peggior squadra della Lega, non benissimo. Ed è così che Dominic decide di fare di nuovo i bagagli e di tornare in Europa, in particolare nel nostro paese. A Bologna sponda Fortitudo. Lo aspettano a braccia aperte, sarà lui ed un ex Los Angeles Lakers come David Rivers ad avere la responsabilità di guidare quella che veniva considerata la seconda squadra di Bologna verso un agognatissimo scudetto. Wilkins rappresenta la pedina fondamentale in un roster che ha come leader Carlton Myers, uno dei più forti giocatori italiani di sempre, e come sua spalla Gregor Fuchka. L'altra squadra di Bologna, quella rivale, la Virtus, in quella stagione riporta contemporaneamente a casa un giocatore che aveva già costruito la storia societaria precedentemente, si tratta di Saša Danilović. Il serbo, dopo aver vinto 3 scudetti con le V nere, aveva provato l'avventura statunitense ottenendo un discreto successo principalmente con i Miami Heat, per poi passare in conclusione a giocare una manciata di partite a Dallas. Ottenuta una media totale di 12 punti a gara in un biennio, decide così di tornare in Italia prendendo parte ad una versione della Virtus strepitosa. Insieme a lui c'erano giocatori come Nesterovic, Abbio, Rigadò, Sconocchini e soprattutto Savic, in panchina il signor Ettore Messina. Vi renderete conto anche per i nomi citati che quelli erano anni assolutamente d'oro per la qualità del nostro campionato di pallacanestro e anche per il fascino che proponeva. Infatti, il derby tra le due squadre di Bologna diventa ossessivo. In Eurolega, incrociandosi nelle eliminatorie, i due roster mettono in scena una rissa degna dei migliori salon dell'antico West. Si arriva alla finale del campionato italiano e le due squadre si ritrovano di fronte ancora. Precedentemente la Fortitudo aveva avuto la meglio in Coppa Italia. Un piccato Danilović dichiarò senza mezzi termini che della Coppa Italia se ne fregava, che avrebbe voluto vincere scudetto d'Eurolega. La sfida tra ex NBA, con tutto il rispetto per Rivers, ma non è mai stato neanche un giocatore di seconda fascia, era tutta quindi tra il serbo e il nostro Dominic Wilkins. Vincere uno scudetto per l'ex Atlanta Hawks avrebbe significato dimostrare a se stesso e al mondo americano che forse lo osservava che quantomeno fuori dai confini dell'NBA era un vincente. Di contro, per Sasha, il problema non era tanto verso The Human Highlight Films, quanto una questione di sfida extracittadina, l'orgoglio delle V nere fino ad allora mai piegate a livello di campionato dai fratelli figli unici della Fortitudo. Si arriva così al 31 maggio del 1998, gara 5, la gara decisiva perché al tempo la serie si chiudeva per chi ne vinceva per primo 3. Considerate a distanza di pochi giorni nel campionato più bello del mondo, appunto la NBA che ben conosciamo, sarebbe andato in scena il secondo atto delle finals tra Bulls e Jazz, quello dell'ultimo titolo di Jordan, insomma un periodo strepitoso per chi seguiva il basket dall'Italia a 360 gradi, come tra l'altro il sottoscritto. La Fortitudo non è apparentemente in forma smagliante, quantomeno però è superiore a quella dei giocatori della Virtus. La stagione è stata infatti lunga ed estenuante per entrambe le squadre, sono molti gli acciaccati in campo, ma la cosiddetta seconda squadra di Bologna ne approfitta portandosi netto vantaggio e provando ad amministrare. Partita piuttosto sottotono per Dominic, per la verità. Di contro anche Danilović non brilla, complice alcuni acciacchi, ma la situazione per l'ex Atlanta Hawks si mette bene, almeno a livello di risultato. Da un punto di vista personale un po' meno. Battibecca con allenatore e compagni, soprattutto con Carlton Myers, reo di non passargli il pallone in avvio di partita. Dopo 5 minuti di gioco viene infatti richiamato in panchina. Si innervosisce, giocherà così una partita pessima, ma le cose vanno comunque per il meglio. Se non è in serata lui, l'importante è quello di non fare danni, perché la serata sembra positiva per la Fortitudo. A 6 minuti dalla fine infatti la Fortitudo è avanti di 11 punti, sembra già tutto deciso, il palazzetto di Bologna è una bolgia, ma la Virtus avvia una rimonta guidata da un gigantesco Sandro Abbio e da Ugo Sconocchini. Si arriva in volata, anche se volata improbabile. Con circa 27 secondi da giocare, Carlton Myers è già in panchina per il quinto fallo, ma crede di avere la vittoria già in tasca. Sul più 3 per la Fortitudo, Fuchka va in lunetta e fa 1-2. Più 4 Fortitudo. Danilović è un cadavere, si muove male, ha giocato malino. Wilkins contemporaneamente è un fantasma, ma tutto sommato chi se ne frega. Solo quella che potremmo definire un enorme e improbabile suicidio sportivo potrebbe cambiare le sorti di quella partita. La Virtus ha la palla in mano, con pochi secondi da giocare, sotto di 4, ha bisogno di una tripla rapida e si va in attacco. La palla passa da Abbio a Danilovic. Da quasi 8 metri Danilovic si gira e tira praticamente alla cieca. Dominic Wilkins, di istinto, gli tocca la palla mentre Sasha carica il tiro. Diciamolo subito, la questione è stata a lungo dibattuta. Probabilmente quello di Wilkins non è fallo, e se mai ci fossero gli estremi, si potrebbe discutere se il fallo è avvenuto in fase effettiva di tiro o preparatoria. Fatto sta che il senso per cui Wilkins sul più 4 si mette a provare goffamente ad ostacolare un tiro disperato di Danilovic è introvabile anche a distanza di così tanto tempo. Danilovic segna, incredibilmente segna con il fallo, un gioco da 4 punti che regala alla Virtus la parità, una cosa pazzesca. A questo punto poi David Rivers perde totalmente il cervello, riceve la rimessa, percorre tutto il campo a velocità supersonica senza un reale perché per arrivare sotto il canestro e perdere la palla, e quindi addirittura la Virtus avrebbe pure il pallone in mano per vincerla. Non la vince in questo modo, si va ovviamente ai supplementari. Qui ogni tiro di Wilkins è una mattonata violenta, ogni tiro di Danilovic è soffice e perfetto dentro il canestro. La Virtus vince il suo 14° scudetto, Sasha Danilovic entra nella leggenda vera del campionato italiano di Serie A, Dominic Wilkins conferma tutto ciò che di male si diceva di lui, se ne scappa con la coda fra le gambe, ricordato da tutti e per sempre per quell'inutile fallo a pochi secondi dalla fine sul più 4. Nel post partita sarà Danilovic stesso ad ammonire i giornalisti, chiedendogli alla sua maniera di limitare le critiche a Wilkins per la prestazione e per l'erroraccio finale. Gli dice: portategli rispetto perché comunque è uno dei più grandi del gioco. Una magra consolazione per Dominic Wilkins, che la stagione seguente proverà a ritornare nella Lega. Troppo vecchio, si accasa però agli Orlando Magic. Per la prima volta in carriera chiude con una media punti nettamente sotto la doppia cifra, 5 punti di media. Opta così in conseguenza per il ritiro definitivo. Benissimo, questa è la rimembranza della settimana. Si è parlato un po' di NBA, ma principalmente di una delle partite più belle della storia del campionato italiano. Vi rinnovo l'appuntamento appunto con NBA Week tutti i giovedì sera su Radio Big World in flusso streaming alle 21.30. La mattina seguente, come sapete, disponibile in podcast nel SoundCloud di Radio Big World e disponibile su YouTube nel canale di Belli 13. Contemporaneamente vi invito a seguire il nostro blog www.medium.com/NBA Week, dove caricheremo il blog post con tutti i video di ciò di cui abbiamo parlato nella settimana e anche il video per questa partita. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana con NBA Week. Why?